Quest'oggi all'interno del test attitudinale si parlava di soprannomi. Toxic Twin, il soprannome affibbiato a una celebre coppia di rocker. La soluzione numero A ipotizzava che fossero Freak Antoni e Dandy Bestia degli Schiantos. Dispiace, ma questa non era la soluzione giusta. Vi hanno mai dato un soprannome insieme? Beh, c'è uno spettacolo, come si chiama lo spettacolo che fate insieme? Il genio e la bestia. Esatto, dove il genio ovviamente è lei. Non si sa, siamo intercambiabili. Non erano loro, e allora forse era giusta la soluzione B, ovvero Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith? Ma guardi, io sarei tentato di rispondere sì. Esatto. E questa è la giusta soluzione. I tossiconi Steven Tyler e Joe Perry, ai tempi poi insomma si ripulirono anche. Beh, erano loro i Toxic Twin, non Keith Richards e Mick Jagger, come ipotizzato dalla soluzione C, i Rolling Stone, che invece si facevano chiamare The Glimmer Twins. Esatto, i cugini, i gemelli glitterati, i gemelli verluccicanti. Sì. Va bene, luccicosi. Bravi se avete azzeccato, male se avete sbagliato. Comunque, anche se avete errato, sappiate che è umano e che è giusto continuare ad ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll nella rubrica del test attitudinale. Bravo. E allora i gemelli tossici, eccoli qui, Steven Tyler e Joe Perry, gli Aerosmith, alle 8 e 34 minuti primi, strombazzata per Vicky che ritorna a scuola, che chiede, strombazzata, in che senso ritorni a scuola? All'alba del 15 ottobre? Vabbè, insomma, comunque la strombazzata l'abbiamo fatta. Buona giornata a tutti, benvenuti su Pane, Burro e Rock and Roll. Puntata intensa questa numero 31 che stiamo vivendo insieme, stiamo costruendo insieme. Parecchie novità, però vorrei iniziare quest'ultimo blocco di mezz'ora sgridando parte dei radioascoltatori che si celano dietro il contatto email e non aiutano la nostra trasmissione. Che chi scrive via SMS, poi la nostra redazione lo ricontatta al volo perché vediamo il vostro numero. Mentre da quando abbiamo lanciato questa campagna contro i calendari, contro il soft porno, vi stiamo chiedendo un aiuto. Noto che c'è un filo di imbarazzo a voler partecipare a questa rubrica. Forse perché sono le 8:30 del mattino e un po' vi capiamo. Forse perché questa cosa del sesso alla radio non è che è proprio giustissima. Ma cosa è giusto qui a Pane, Burro e Rock and Roll? Vi chiedo spudoratamente. Questo per sgridare più di un paio di amici e di amiche che per aiutarci sul calendario mi inviano mail con foto dei calendari, che tra l'altro mi interessano minimamente, ma si celano dietro la mail e non ci danno il loro numero di telefono. Allora, ripeto, l'appello è importante. Abbiamo bisogno per questa rubrica della vostra voce. Siete voi che dovete descriverci l'immagine soft porno, altrimenti non ha senso. Fate, prendete esempio dal nostro buon Luca, edicolante di Campi Bisenzio, che spero di risentire nei prossimi giorni. Lui ormai si è preso il reparto donne, quindi per le donne possiamo farlo fare a lui. Per i maschietti, abbiamo intervistato, c'è un calendario dei rugbisti e uno dei fotomodelli 2008. Li vedo anche perché me li hanno spediti a dario@radiorockfm.com. Ripensateci, voi che vi nascondete dietro la mail, abbiamo bisogno di voi. Riprendiamo con la trasmissione, abbiamo inaugurato questa nuova rubrica, ci terrà compagnia fino a venerdì. Così ogni tanto d'amblè cadrà dal nulla, non ci resta che piangere. Dipingete? Fate il pittore? No, no, faccio musicista. Fatemi sentire qualcosa. Adesso? Sì. Mo non... Adesso così non mi viene, no? Non... Vi prego. Vi prego, è difficile scegliere una fra tutte quelle che... Cioè questa qua, no? Questa è bella, cioè bella secondo me, però è solo l'inizio. Non l'ho fatta ancora, ma perché sto scrivendo ancora, no? E fa così. Proprio inizio, no? È questa qua. Così. Yesterday, boom, boom, boom, boom, la musica la faccio con la bocca. Na, na, na, na, na, na, far away. Yesterday. Na, na, na, na. E poi tutta questa melodia qua, insomma, no? Tutto su yesterday. È bellissimo. sit, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped Veramente non ci avrei mai creduto, Freak, ma c'è gente che la stima talmente tanto a tal punto da voler diventare come Freak Antoni. Non ho parole, cosa devo dire? Ho scoperto giornalino che lei pubblicizza anche un corso a pagamento per diventare come Roberto Freak Antoni. Ma sì, mi sono accorto anch'io che ci sono degli amici, degli ammiratori, dei fan, dei sostenitori che, data la loro insistenza, io ho pensato di accontentare. Come fare a resistere alla possibilità di diventare simpatico, divertente, frizzante, anche un po' ricco, come Roberto Freak Antoni? Il corso è sempre molto basso. Se non ho capito male, abbiamo il primo iscritto al corso Voglio diventare come Roberto Freak Antoni, fa, leggo da nota, il gelataio e ci contatta da Genova. Pronto? E ha già pagato la sua rata. Credo di sì. Gian, ci sei? Senti? Sì, pronto. Pronto? Ciao Gian. Benvenuto al corso Voglio diventare come Roberto Freak Antoni. La prima rata l'hai già pagata? La prima rata sì, anzi ne approfitto per dire al maestro Freak Antoni che si fa pagare non poco. Ah beh, insomma, amico Gian, perdonami, io so che può sembrare assolutamente disdicevole, sembra che io voglia lucrare su questo corso. Ma non è così. Lo si fa solo per l'arte. Vogliamo far per capire la cultura ai radioascoltatori l'importanza di un corso come questo. Dia subito un esempio dell'importanza di questo corso, dia un consiglio, un qualcosa, questo ragazzo che tra l'altro ha già pagato. Sì, no, io vorrei più che altro proferire una massima che mi sembra importante. Fantastico. Perché tutti dicono che quando toccano il fondo prima o poi risalgono, io invece mi metto a scavare. Oh, e fantastico. Questa intuizione, oppure campagna Gian, contro la droga, città favorevolissima. Gian, questo era gratis, grazie, ci mancherebbe dopo quello che ho versato. Offre Rock FM, senti Gian. Grazie Gian, ma non è una questione di soldi, parliamo di cultura, parliamo d'arte. Io so che Gian si è preparato per fare un po' bella figura con lei, con delle freddure, delle barzellette, insomma siamo all'archetipo del divertimento. In realtà la barzelletta, il motto di spirito, ha una forza di per sé dirompente. Chi lo sa, potremmo aver trovato il nuovo Gino Bramieri genovese. Gian, te ne sei tipo preparata qualcuna? Allora, io posso dire di stare attenti quando si passa per strada e si incontra un uomo che sta vomitando un pullman. Davanti a che cosa si è passati? Un uomo che sta vomitando un pullman. Ci dia un aiutino. No, era sottile, era finita. Vi do un aiutino, qua finisce che vi do la soluzione. Quiz. Passiamo a un'altra, Gian. Volete la soluzione o no? Sì, certo. Lo dica certo. Lei, non lo sappiamo, ci arrendiamo. Ci arrendiamo. Siete passati davanti alla rimessa degli autobus. La rimessa. Il ragazzo è sulla strada giusta, Voglio diventare come Roberto Freak Antoni. Bravo Gian. Mi sono molto divertito. Complimenti. Alla prossima e mi raccomando. Mi raccomando, la rata. Esatto, lei la dovrebbe spedire. Salvadanaio. Perfetto, Gian, alla prossima. Ciao. Complimenti. Grazie. Corogna, mi sentite? Un altro maledetto lunedì da affrontare, una nuova settimana di esperimenti a cui sono sottoposto per la cattiveria di voi umani. Speriamo almeno che questa settimana che inizia oggi mi porti la sperimentazione del Viagra e che c'è quella topolina cavia della gabbia 27 che mi attizza. Almeno un po' di divertimento, visto che siamo vostri schiavi umani maledetti. Buona settimana di fatica anche a voi, umani. Ma attenti, la topolina della gabbia 27 mi appartiene di diritto. Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take the wrong key. So they rode on his head in the furry donkey. They couldn't stop Jack or the water's coming, and they couldn't prevent Jack from being happy. Couldn't stop Jack or the waters lapping, and they couldn't prevent Jack from feeling happy. Meravigliosi Who, Happy Jack, 8:51, un saluto a Barabba, ma soprattutto un saluto a una nuova radioascoltatrice milanese che corre in aiuto di pane, burro e rock and roll, e questa nuova crociata contro i calendari soft porno che fioriscono nelle edicole di tutta Italia. Grazie Rosy! Prego! Sono contentissimo, perché settimana scorsa abbiamo iniziato descrivendo la Moric e tante ragazze hanno scritto, sai, è ovvio, no? Ah, fate solo le donne nude. Criticano, ma poi si nascondono, hai capito? All'appello risponde solo lei, la mitica Rosy. Oh, grazie. Allora, il discorso è molto semplice: per combattere lo strapotere dei calendari, noi ve li descriviamo così vi passa la voglia di andare a comprarli, perché già ve li abbiamo fatti vedere in radio e in teoria dovrebbero non vendere, cioè dovrebbe esserci il crollo della categoria dei calendari. Questo è l'obiettivo da raggiungere. Secondo te ce la faremo? Penso di sì. Potrebbe essere. Allora, Rosy, il dramma, il primo problema dei calendari con i maschietti nudi è: come si fa a capire se è un calendario gay friendly o se è un calendario per signore, o è la stessa cosa? Allora, questo calendario, che è il calendario dello Stade de France, del Lieu de Stade, che sono una squadra di rugby francese, è un po' e un po', perché ha delle foto, sì. Nonostante il legame, il link del calendario sia il legame della squadra, infatti alcuni giocatori hanno le catene, ha delle foto un po' ammiccanti, ovvero foto durante docce, negli spogliatoi, in cui abbiamo un gruppo di personaggi, e altre invece in cui l'atleta è da solo. Ok. Quindi È un po'. E va detto che il proprietario della squadra è gay, quindi. Ah, beh, allora. Se li fa in casa. Giochiamo a carte scoperte. Ecco, capito. Diciamola tutta. Noi facciamo che è per signore, visto che lo descrivi tu, quindi sei una signora. Allora. Quando descriveremo poi uno per gay, speriamo di poter avere un amico in onda. Partiamo dal numero, dal mese di dicembre. Attenzione, avviso i radioascoltatori più giovani che questo è il momento soft porno della trasmissione. Rosy adesso arraperà tutte le nostre radioascoltatrici, quindi cambiate stazione radiofonica per qualche minuto. Andiamo con il mese di dicembre degli amici rugbisti francesi. Vai Rosy! Allora, la location sì. È un esterno di una bella villa con questa scalinata. Sì. Abbiamo quattro ragazzi mori visti da tergo. Ah. Uno tatuato appena sopra il coccige. Attenzione, sì. E il quinto losco figuro sullo sfondo, biondo, visto di fronte. Ai ai ai ai ai. Ma? Con diciamo l'inizio dei peli pubici coperto dalla spalla di uno degli altri giocatori. Ai ai ai, ai ai, così mi piaci, stai entrando nel particolare. Parlami, questi rugbisti devono essere giganti. Allora, come potrai notare anche tu dalla foto, uno deve essere piuttosto piccolino, sarà il mediano di apertura. È quello in mezzo. Piccolino, aspetta, ci tengo a prendere le difese del rugbista e visto da dietro, quindi piccolino è l'altezza. Sì, è piccolino di statura, dal momento che è sul primo gradino, mentre l'altra figura in primo piano è a piano terra. E sono alti uguali, c'è un gradino di distanza. No, ripeto, perché sennò uno pensa che piccolo potrebbe, capito? C'è un po' un gioco di... Sì, ma non ci siamo credo. Capiti, va bene, esatto, non si sa perché... La regola della L, non penso. Esatto, l'attrezzo non si vede. Ecco. Anche lì posso spezzare subito una lancia contro questi calendari soft porno? Perché delle signore si può vedere tutto e dei maschietti no? Perché su questa foto non si vede, ma su... Ah, ok, scusa, allora ti ringrazio che hai scelto la dicembre. Scusa, ritiro la domanda subito. Quindi ci sono altri mesi invece attrezzati? Sì, un pochino più attrezzati. Più attrezzati. Proseguiamo, quindi ce n'è uno un po' più basso. Beh, devo dire, posso dire la mia? Sì. Passiamo sì. Alle chiappe, dai. Avete presente una palla da rugby? Questa forma ovale perfetta. Sì. Diciamo che questi glutei si avvicinano molto. Cioè, hanno due palle da rugby al posto delle chiappe. Esatto. Questa è l'immagine che ci stai regalando, sì. Polpacci medio definiti, poi non so, dorsali. Direi va bene. L'unica nota dolente è il biondino di sfondo, quello che si vede da di fronte, ha l'addominale, come potrei notare, un po' asimmetrico. Lo farei esercitare un po' di più. Che non va bene. Mi disturba l'occhio. Questo vuol dire che però non l'hanno ritoccato. Sai che di solito fanno i ritocchini? Non credo ci sia molto da ritoccare su questi, comunque. Grazie Rosy per l'intervento di quest'oggi. Ti aspetto presto con un altro calendario. Magari andiamo più. No. Teniamo così, insomma, vedremo. Va bene. La decideremo vivendo. Rosy, grazie di esistere. Ciao, ciao a tutti. Place to bear. sapevo che sarebbe andata a finire male quest'oggi. Rubiamo qualche minuto a Bob Seger e alla sua Silver Bullet Band con questa Still the Same, per far partire puntualissimo anche quest'oggi il buon Marco Garavelli, anche perché pane, burro e rock and roll a da finì. Questa è la fine. Allora, c'è il delirio nei messaggi. Perdonami Marco, ma questa rubrica sui calendari non potevamo censurarla, era da fare. Un minuto preciso alle 9 e correrei in sigla anche quest'oggi, lanciandovi l'appuntamento a domani, di nuovo in diretta dalle 7 alle 9 del mattino, qui a Rock FM, la colazione che dà assuefazione. Burro e rock and roll, tracu tracu tracu tra, la tua colazione rock. Mauro scrive un sms che non ha capito la rubrica con Rosy. Burro e rock and roll, stava semplicemente descrivendo un calendario di uomini nudi. È il reparto soft porno di pane, burro e rock and roll. Per alzare l'ascolto cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato.